Allora, buonasera, iniziamo il dibattito pubblico. Chiedo a tutti di tenere i microfoni spenti ed accenderli soltanto quando vogliono intervenire. Abbiamo come ospiti stasera Vittorio Gnoletto, medico del lavoro, e la giornalista Ginevra Battistini. Per aprire la serata parlo io 5 minuti di quello che abbiamo passato noi come associazione dal 23 febbraio a causa del Covid-19 sul nostro territorio. La situazione che abbiamo registrato noi era una registrazione e dal punto di vista anche familiare era che il pericolo sussisteva già all'interno dell'ospedale e c'erano già dei preallarmi a gennaio che c'erano tante persone che stavano male, quindi la situazione non era già positiva. Dopo il 23 febbraio io ho avuto infatti un crollo subito e mi sono messo appunto anche a piangere perché mi rendevo conto, conoscendo come anche la mia città, quello che saremmo andati incontro. Tra l'altro appunto nel 2005 ebbi anche una discussione con il mio titolare su questa faccenda, sulle mascherine, su quello che disse l'OMS, scrisse su cos'era la pandemia, l'epidemia, le varie diversificazioni, di che cosa, no, l'OMS non ha scritto quelle cose. E stavo dicendo, sì, che praticamente avevo già, io ero stato... come si chiama, per i lavoratori, il referente per sicurezza sul lavoro, e in quel momento lì ho proprio visto che a non avere l'FP2 sul posto di lavoro poteva essere un grave problema per l'azienda, e quindi è partita una discussione e niente, praticamente da allora a quanto pare non è cambiato nulla dal punto di vista di INAIL, di prevenzione sul lavoro, e soprattutto poi ci sono stati tutti i problemi causati dalla malsanità della Lombardia, e quindi si è bloccato tutto, le forniture mancavano, tutto ciò che arrivasse, la mia compagna si è ammalata subito praticamente, io sono stato messo subito a rischio e probabilmente me lo sono fatto anch'io. Una decina di giorni fa finalmente sono riuscito a farmi fare almeno il tampone per capire se potevo andare a ritrovare i miei, perché io dal 23 febbraio ho telefonato ai miei e ho detto guardate, no, qualcuno ce l'ha acceso forse, guardate che non passo più, non mi vedete più perché io sono molto esposto in questo momento, quindi non rischiamo niente. E susseguirsi della situazione che ho sentito a livello ospedaliero e poi a livello di morti e poi a livello di persone che erano a rischio e tutto, insomma, che io ho perso 15 kg in questi 3 mesi. Niente, questo dopo come associazione ci siamo mossi appunto mettendo la discussione sulle mascherine, quali mascherine, perché qua se andiamo in una pandemia, cioè d'accordo la distanza, cioè, se senza mascherina stai a 4 metri, se ce le hai quelle cose stai a 2 metri, se c'è l'FP1, FP2 o l'FP3 senza valvola puoi stare benissimo attaccato, cioè una protezione che ti supera il 90%, non il 6%. E quindi abbiamo cercato di capire dove potevamo rifornirci di questi DPI. Abbiamo contattato la dogana di Como, dove il capo dogana in maniera amicale ci ha raccontato quello che avveniva momento per momento. Praticamente prima la dogana era aperta e passava tutto, grazie a qualcuno che ha richiesto di aprirla, e dopo ci sono stati blocchi totali, quindi veniva sequestrato qualsiasi mascherina che non fosse destinata a un ospedale pubblico, che quindi loro ci avevano la corsia di preferenza, veniva bloccata se aveva il marchio CE sbagliato cinese piuttosto che erano vecchi DPI, cioè vecchie registrazioni e non quelle attuali degli enti certificatori italiani che sono una ventina, piuttosto che quelli europei che sono altrettanti, sono 40 mi sembra. E noi quindi ci siamo subito mossi per dire, noi abbiamo delle comunità in casa come quelle di Don Giusto, come gli operatori, i ragazzi che portavano a casa da mangiare agli anziani, cioè avevamo una serie di persone che erano esposte e esponevano gli altri, tanto sulle mascherine sbagliate. E quindi c'è stata la protezione civile che ha verificato all'interno della dogana, insieme a tutti i doganieri e tutte le cose, e hanno trovato che c'era l'unica che poteva andare, era la 3M, che costava 47 euro. E quindi da allora noi siamo rimasti bloccati su questo, cioè, scusa, quindi allora quella che vende la Coppi, no, lascia stare, se tu vuoi mandare in giro la gente in maniera coperta, così cerchi di trovare quale certificato, cioè fai una cosa fatta bene, fai una cosa a metà che non sai neanche dopo fin dove arriva. Da allora praticamente non ce ne sono state segnalate. Noi abbiamo scritto a tutti gli enti certificatori italiani, hanno risposto solo in 5 dicendo che non ne avevano nessun cliente con queste DPI per questo caso. Dopodiché abbiamo recuperato il codice, ad esempio, di una mascherina di quelle FFP2 che utilizzano in ospedale. Abbiamo cercato anche di contattare i fornitori dell'ospedale, ci ha passati anche l'ospedale, così, ma nessuno erano certificati come veniva richiesto. E sta di fatto che abbiamo scritto un ente certificatore inglese, ci hanno risposto, gli altri non hanno risposto, no, guardi, i dati dei nostri clienti non li diamo. Quindi, secondo me, questo è un punto importante, anche politico, perché noi adesso andremo, se ci va male, a ottobre, a qualcosa che potrebbe essere peggio se esteso a livello nazionale nelle varie regioni, senza nei posti di lavoro, nei luoghi dove c'è un alto addensamento, delle mascherine decenti, cioè rischiamo di rifare ancora di essere primi ancora a livello mondiale, capito? Cosa che volevo dire, un po'. E mi ha stupito e mi ha fatto molto un po' ribrezzo l'espressione di Vittorio Colao quando dice appunto che i datori di lavoro non hanno nessuna colpa in questo momento, però come andrà a finire allora questa cosa? Che pagherà tutto l'INAIL, quindi dovremo pagare sempre noi gli errori di altri. Oppure ci saranno, oppure metteremo 12 in croce come abbiamo fatto con la fine della seconda guerra mondiale, chiuso tutto, ciao, si è visto. Cioè, voglio capire un po' come va a finire anche questa cosa, quindi questa la metto anche come domanda già a Vittorio, la nostra amica giornalista. Come l'ultima cosa, dopo quasi finito, è quello che ha detto Piercamillo Davigo, cioè magistrato, che continua a ripetercelo ormai da parecchio tempo, che dice: sì, ma ragazzi, ma se voi non vi fate avanti, noi non possiamo operare, non siamo noi quelli che prendono e poi mettono, cioè noi decidiamo, cioè giudichiamo e basta. Quindi questa è una cosa importante secondo me anche sui prossimi passi che andranno fatti, sempre tenere conto se si vogliono fare, se non si vogliono fare, se c'è qualcuno che seguirà. Per questa serata abbiamo fatto una nuova mailing list che si trova sul sito di Noeros, ma verrà messo anche su Atracomo, che si chiama Rete Azioni Covid-19. Questa mailing list è su Google, quindi basta cercarla all'interno e fare la richiesta, oppure mandare una semplice mail a info@noeros.it o info@atracomo.it e nell'oggetto scrivere: voglio, iscrivetemi per favore a Rete Azioni Covid 2019. Nessuno si salva da solo, vediamo di organizzarci. Allora, passerei la parola adesso a Vittorio per capire cosa è stato per lui questi 3 mesi? Cosa sono stati? Cioè, stai, Vittorio? Scappato. Giampaolo? Vittorio? Ti senti? Eccola. Sono? Mi sentite? Mi sentite? Mi Sì. vedete? Ok, grazie. Allora, buonasera a tutte e a tutti. Provo anche a raccontare quello che sto facendo. Allora, prima di tutto abbiamo costituito l'osservatorio coronavirus su iniziativa di Medicina Democratica e la trasmissione 37.2 di Radio Popolare, che ormai da 5 anni tutti i giovedì dalle 10.35 alle 11.30 affronta i temi della sanità. E questo osservatorio coronavirus ha utilizzato la trasmissione di Radio Popolare. Scusa Vittorio, c'è poco segnale, puoi togliere il video e facciamo dopo solo audio, dai. Grazie. Mi sentite? Sì, bene, adesso meglio. Adesso meglio? Ricomincio allora. Va bene. Allora, buonasera a tutte e a tutti. Anch'io proverò a raccontare un po' quello che ho fatto e che sto facendo, che stiamo facendo in questa situazione. Subito dalla fine di febbraio, da quando c'è stato il caso numero uno, almeno quello che è stato chiamato poi il caso numero uno identificato a Codogno, abbiamo attivato l'osservatorio coronavirus, costruito da Medicina Democratica e dalla trasmissione 37.2, che ormai da 5 anni va in onda su Radio Popolare tutti i giovedì dalle 10.35 alle 11.30. Abbiamo dentro questo osservatorio quindi la trasmissione, poi una serie di dirette Facebook che andavano in onda direttamente inizialmente 3 volte alla settimana, poi man mano a diminuire sulla mia pagina Facebook, quella pubblica, quella privata, la pagina di 37.2 e la pagina di Medicina Democratica, con le varie mail, WhatsApp, eccetera. L'osservatorio poi ha fatto una serie di accordi e di allargamento con altre associazioni, in particolare con l'associazione Avvocati per Niente, per seguire tutti gli aspetti giuridici, diciamo, giudiziari, poi con l'Università della Bicocca per fornire un sostegno psicologico a chi ne aveva bisogno, quindi un'attività di counseling, e con l'associazione In Cerchio per fornire informazione a tutti i soggetti fragili, quindi non solo le persone con disabilità conclamata e riconosciuta, ma con tutte le persone che avevano una problematica di fragilità e quindi in rapporto con INPS, INAIL, la legge 104 e via dicendo. Ecco, questo percorso che è iniziato a febbraio, devo dire che è stato un percorso veramente, ed è un percorso veramente difficile, insomma, difficile e complicato. È basato completamente sul volontariato, nel senso che tutte le attività che svolgo è tutta un'attività volontaria e che ha preso praticamente tutte le giornate, non solo le giornate, anche pezzi importanti della notte, perché siamo stati sommersi da telefonate, da richieste, da suggerimenti, da rivendicazioni di diritti, veramente un'onda che continua anche adesso, e abbiamo cercato di rispondere e di fare del nostro meglio per non lasciare nessuno, diciamo, con le proprie domande, le proprie incertezze. Però oltre a questa attività di sostegno e di informazione costante, perché bisogna dire che su mainstream è girato di tutto, veramente una grande quantità di fakes, di notizie non precise, di notizie buttate lì per cercare di colpire l'immaginario, l'opinione pubblica, per avere qualche minuto in più in televisione, poi invece bisognava cercare di vedere cos'erano notizie vere, quali erano documentate scientificamente, che cosa non era documentato, e quindi anche cercare di evitare allarmismi, ma evitare anche delle semplificazioni. Però oltre a tutta questa attività di informazione, abbiamo svolto un'attività e svolgiamo un'attività importante anche di denuncia, che parte dalla constatazione dell'assoluto e totale fallimento del servizio sanitario della Regione Lombardia. Allora, provo a dire quello che noi abbiamo verificato, e partirei proponendovi un'immagine. C'è una grande onda che arriva, un'onda dal mare che cresce e che è l'onda del virus, la si vede da lontano e si teme, no, che possa arrivare con tutta questa forza sulla spiaggia, distruggere tutto quello che c'è sulla spiaggia, le persone, le famiglie che rischiano di essere travolte. E allora di fronte a questa onda c'è un primo frangiflusso che dovrebbe avere il compito di attutire la potenza di quest'onda prima che l'onda possa arrivare sulla spiaggia. Cos'è questa prima linea di contrasto all'onda? Cosa avrebbe dovuto essere? Cosa dovrebbe essere? Dovrebbe essere costituita dai servizi territoriali del nostro servizio sanitario regionale. Prima di tutto dai medici di famiglia, i medici di medicina generale, quelli che vengono chiamati medici di base, che è una rete che tutto il mondo e tutta Europa ci invidiava. Tutti i cittadini italiani, tutti i cittadini immigrati irregolari, tutti i cittadini minorenni immigrati irregolari devono avere un medico di famiglia di riferimento. Spesso il medico, alcune volte, il medico conosce anche tutta la famiglia, le dinamiche, ha una cartella clinica, quindi è il punto spontaneo di riferimento di tutte le persone. Poi ovviamente, come in tutte le categorie di persone, ci sono coloro che svolgono bene il loro lavoro e coloro che lo svolgono male. Bene. Questa prima linea di medici è stata letteralmente abbandonata a se stessa. Io ricordo benissimo le giornate di fine febbraio quando mi telefonavano i colleghi disperati, disperati perché non avevano nulla, non avevano le mascherine, non avevano i camici monouso, non avevano indicazioni su come gestire gli ambulatori. Pensate che l'ATS di Milano ha mandato la prima mail ai medici di famiglia, ai medici di base, il 2 marzo, quindi ben dopo il 21 febbraio, dicendo oggi pomeriggio potete andare a ritirare le mascherine. E quando i medici sono arrivati nella seconda metà del pomeriggio, le mascherine erano pressoché finite, ne potevi prendere solo poche unità, quindi non serviva assolutamente a nulla. Non solo, nessuno ha dato inizialmente indicazione ai medici di famiglia che bisognava per esempio cercare di dare degli appuntamenti in un orario diverso alle persone che erano sospettavano di avere il Covid, che non bisognava evitare l'assembramento dentro le sale d'aspetto, abbandonati a se stesso. Gran parte di questi medici si sono ammalati. In più non avevano gli strumenti, il saturimetro per andare a vedere qual era l'ossigeno nel sangue, nulla, assolutamente nulla. Andiamo oltre. Altra questione, ma non è mica normale, perché noi hanno fatto credere allora che fosse normale, non è mica normale che il primo giorno in cui si individua una persona con Covid, ora della sera vi siano 13 infetti, di cui 5 tra personale sanitario e persone ricoverate precedentemente dentro l'ospedale dove era stato ricoverato il paziente numero 1. E non è normale, perché esistono le linee guida universali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sulle precauzioni che tutto il personale sanitario deve utilizzare in una fase di epidemia. Cioè una cosa molto semplice, in una fase di epidemia il medico deve considerare tutte le persone che visita come potenzialmente infette, se non conosce il loro stato, e di conseguenza deve prendere le precauzioni. Ma la domanda è, la regione ha investito nella formazione del personale sanitario, oltre ha fornito i dispositivi di protezione individuale, ha messo il personale in grado anche di rispettare i tempi che prevedono queste misure di precauzione, che ovviamente richiedono un tempo un po' più lungo nelle visite, ha messo un numero di persone tra il personale sanitario in grado di potersi alternare, di poter rispettare tutti i tempi necessari? Assolutamente no. Ed è stato un disastro, e non è un caso che lì dove i sanitari si sono infettati di meno, il personale sanitario è stato nei reparti di malattie infettive, proprio perché lì questa prassi è consolidata, cioè fa parte della quotidianità. E quindi anche la prima linea di coloro che erano nel pronto soccorso abbandonati a se stessi. Andiamo oltre. Di fronte a un'epidemia che arriva, a un agente infettivo, c'è uno spazio che l'OMS individua come un, chiamiamolo, periodo di opportunità, lo chiamo una finestra di opportunità, che è il periodo che va dal primo momento in cui il virus viene identificato in una parte del mondo, in questo caso in Cina, dal momento in cui si individuano le vie di trasmissione fino a quando questo virus poi arriva dall'altra parte del mondo, arriva nel luogo, come in questo caso per esempio l'Italia. Questo periodo, questa opportunità è stata di oltre un mese. Questa è l'opportunità che i governi, gli stati, i responsabili della sanità pubblica hanno per organizzare la resistenza contro il virus. Nulla di tutto questo è stato fatto nel mese e mezzo. Semplicemente bloccati i voli diretti della Cina, che sapete è servito a poco, perché uno scendeva in un altro hub, cambiava Francoforte e arrivava lo stesso. Ma dal punto di vista dell'organizzazione del servizio sanitario, nulla. Ma neanche dare dei numeri verdi, perché non vi dimenticate che all'inizio è stato dato come punto di riferimento 112, il che cosa ha comportato? Che essendo 112 il numero d'emergenza, tutti telefonavano al 112 e molte persone telefonavano per avere informazione, e molte persone che avevano invece bisogno del 112 come emergenza, pensiamo a chi ha avuto un infarto, trovavano il numero strapieno, occupato, in coda, e quindi ci sono stati decessi provocati da questo intasamento anche del numero 112. Quindi non è stato fatto nulla. Abbiamo detto abbandonati i medici di base, abbandonati gli operatori di pronto soccorso, ma non hanno fatto nulla neanche nel preparare un studio epidemiologico per capire come il virus si sarebbe diffuso. E qui torniamo a un'altra enorme responsabilità della regione Lombardia. I tamponi sono uno strumento fondamentale, come tutti gli strumenti diagnostici in presenza di un'infezione, di una patologia trasmissibile. E questi strumenti devono però saper essere utilizzati. E i tamponi li hanno gestiti come quattro amici al bar che si trovano a decidere che cosa facciamo oggi con i tamponi, mentre i tamponi andavano utilizzati verso le persone sintomatiche. Individuate la persona positiva, bisogna fare un veloce colloquio, capire chi sono stati i contatti di questa persona positiva, contattare queste persone, fare un tampone a queste persone, con quali risultati positivi, fare un colloquio e così di seguito allargare il cerchio in una serie di cerchi concentrici sempre più ampi, in modo tale da inseguire e imprigionare il virus. Zero, zero di tutto questo. Neanche poi in fase successiva uno studio epidemiologico su una popolazione stratificata che però fosse rappresentativa della popolazione della città metropolitana milanese oppure della regione Lombardia, in modo di capire qual era l'andamento del virus, qual era l'andamento di zero. Attenzione, l'assenza poi di un programma di sorveglianza sanitaria, guardate che non è una cosa complicata, è prevista dalle delibere e dalle leggi, cioè che cosa significa? Che la rete sul territorio di medici di base, quando si trova normalmente in presenza di una patologia nuova o di un aumentare improvviso di determinati sintomi, fa le segnalazioni in regione, sono degli allerta si chiama, e in regione devono mettere insieme questi dati, capire cosa sta accadendo, cercare di individuare cos'è questa nuova patologia e quindi intervenire. Zero. Non dico ricerche in generale, ma pensate, perfino l'istituto, il dipartimento di trasfusione e di ematologia del Policlinico ha individuato attraverso uno studio molto preciso che il virus nell'area metropolitana di Milano era presente già alla fine di dicembre. Che vuol dire che ha avuto due mesi per diffondersi senza che nessun campanello d'allarme scattasse nel servizio di sorveglianza sanitaria della regione, che ci deve essere per legge, non è un'invenzione. Allora, tutto questo che è avvenuto si è sommato a che cosa? Alla chiusura che c'è stata ormai da decenni in tutta Italia, ma in particolare in Lombardia, di ambulatori territoriali, di ambulatori specialistici, dei piccoli ospedali. Quando vogliono dire che chiudono, la regione dice che vengono accorpati. Accorpati però vuol dire molto semplicemente che si dimezzano, da due passano a uno. E anche questi servizi vengono lasciati oltretutto con poco personale. Riguarda tutti i servizi territoriali, riguarda i servizi di prevenzione e tra questi, cosa importantissima adesso, i servizi di prevenzione di medicina del lavoro che oggi dovrebbero andare a verificare cosa sta dicendo, accadendo sui luoghi di lavoro, non hanno praticamente più nessun ruolo, dovrebbero fare i controllori. hanno pochissimo personale, se riescono ogni giorno a fare qualche singolo controllo è già tanto, per il resto hanno mandato i questionari per sapere come andavano le cose, come volete che gli rispondano i datori di lavoro. Allora, tutta questa linea, tutta, è stata travolta dall'onda, e io però direi in modo molto chiaro ed esplicito, anche perché qualcuno, cioè la regione, questa prima linea la picconava dalla spiaggia, per tornare alla metafora di prima, cioè da dietro. E quest'onda è arrivata fortissima sugli ospedali. E qui che cosa ha trovato? Ha trovato un servizio sanitario che non aveva fatto altro che tagliare posti letto negli ospedali. Pensate che a livello nazionale nel 1981, 3 anni dopo la riforma sanitaria del 78, c'erano 530.000 posti letto, è vero, all'interno di questi si considerano anche i posti letto della psichiatria, manicomi che poi sono stati chiusi, quindi erano diciamo circa 480.000 posti letto, oggi sono poco più di 200.000 a livello nazionale, cioè meno del 50%. Non solo, tra i dipartimenti ospedalieri maggiormente tagliati ci sono stati anche dipartimenti per l'emergenza e il pronto soccorso. E qui c'è una ragione. Come chi mi ascolta sa perfettamente, in Italia è possibile avere delle strutture private, convenzionate, accreditate col servizio sanitario pubblico, che forniscono dei servizi e poi vengono pagate, e pagate parecchio, dalle strutture, dalle istituzioni, cioè dalle regioni, vengono rimborsate. In Lombardia circa il 40% della spesa sanitaria corrente è destinata alle strutture private accreditate. Ora, proviamo a ragionare su una cosa semplicissima. Cos'è una struttura privata accreditata? È una azienda privata dove degli azionisti, che possono essere anche fondi pensioni, fondi finanziari, banche, multinazionali e via dicendo, investono per trarre profitto. Come tutte le altre aziende, però questo interviene sulla sanità. Ma un'azienda che interviene sulla sanità da cosa guadagna? Dai malati e dalle malattie. Cosa ne discende? Che tutte le strutture private accreditate se ne fregano della prevenzione. Non solo se ne fregano. La prevenzione è un'avversaria del profitto delle strutture private, perché se intervenendo con la prevenzione tu eviti su 10 persone che 5 si ammalino, loro hanno meno da guadagnare. Quindi sono come minimo disinteressati all'attività di prevenzione. Poi all'interno dei vari settori della medicina decidono di investire su quei settori che producono maggiori profitti, l'alta chirurgia, la cardiologia, le patologie croniche, sicuramente non i dipartimenti d'emergenza. Questo ha fatto sì che appunto i posti fossero ancora di meno, perché erano presenti nel pubblico in misura molto minore rispetto alla totalità dei letti che hanno a disposizione nelle strutture private accreditate. E qui è avvenuta la tragedia nella tragedia, perché l'onda è arrivata su questi reparti e non solo i posti letto, ma soprattutto i macchinari necessari per permettere un sostegno alla respirazione di chi attraverso, a causa di una polmonite interstiziale o di altre patologie polmonari, non riusciva più a respirare, questi macchinari erano assolutamente e totalmente insufficienti. E molti miei colleghi, purtroppo, si sono trovati a dover decidere a chi dare il macchinario e a chi non darlo, abbandonandolo al proprio destino. Il privato accreditato si è mosso con circa 2 settimane di ritardo. Dopodiché, andando avanti in questo percorso, cosa c'è stato? Che con tutti i letti pieni, a quel punto, noi cosa abbiamo chiesto? Abbiamo chiesto la riapertura dei reparti degli ospedali che erano stati chiusi in questi anni, in questi mesi, con la contestazione da parte dei movimenti, dei comitati locali che si erano formati. Abbiamo chiesto la requisizione di quelle cliniche private, parlo di quelle non accreditate, quindi che non erano coinvolte nella vicenda del coronavirus, che però hanno diversi posti, ce ne sono tante, che mettessero a disposizione i loro reparti per chi, uscito dalla fase più critica ma ancora con un potenziale infettivo perché aveva ancora il virus dentro di sé, usciva da quei reparti di emergenza e doveva andare da qualche parte per continuare la fase di cura. L'assessore, perché l'unica volta che sono riuscito a avere una diretta 5 minuti con Gallera, gli ho detto esattamente questo, se ne è fregato totalmente. E devo dire che anche il Comune di Milano non ha alzato un dito su questo, perché a Milano è pieno di cliniche private. E siccome c'era un decreto del Presidente del Consiglio che autorizzava le autorità locali a chiedere ai prefetti di requisire, poi decidevano i prefetti, ma toccava le autorità locali, non hanno fatto nulla. E a quel punto la Regione ha fatto la famosa delibera dell'8 marzo che sostanzialmente auspicava lo spostamento di chi usciva dagli ospedali dentro l'RSA. Su questo non mi dilungo, perché la tragedia che è accaduta la conoscete tutti. Io ricordo in quel mese, soprattutto a marzo, cioè a noi arrivavano mail, telefonate, WhatsApp, eccetera, a tutte le ore del giorno e della notte, alla una, alle due, alle tre, e a chiamare erano i parenti, ma a chiamare erano anche tantissimi del personale, fisioterapiste, infermiere, medici disperati. Non abbiamo i dispositivi di protezione, non vengono separate le persone. Pensate che una mattina alle 7 mi ha chiamato un direttore dell'RSA: dottore, per favore, ha dei medici da mandarci? Gli ho chiesto gli ATS, gli ho chiesto la protezione civile, non arriva nessuno. Il nostro medico è a casa, in Covid, cosa possiamo fare? Mi ha chiamato un altro direttore dell'RSA: dottore, mi sa procurare le mascherine? Dico, ma non abbiamo queste possibilità. Disperate. E avendo già fatto tutta un'opera continua di denuncia dei comportamenti della Regione, se arrivano a chiamarti, ovviamente chiedendo però l'anonimato, vuol dire che sono arrivate a un livello di disperazione. E poi sapete quello che è accaduto: abbandonate se stesse le persone ricoverate in RSA, abbandonato il personale, e per giunta con rifiuto della Regione di fare i tamponi al personale sanitario, ma non l'hanno fatto neanche a quelli che, se avevano un collega che si era ammalato e avevano lavorato insieme a lui fino a un'ora prima, nulla. Il cittadino, se veniva in contatto con una persona Covid positivo, doveva stare in quarantena. Il personale sanitario e sociosanitario no, andare avanti a lavorare fino a quando aveva 37,5 senza tampone. Il motivo è molto semplice: non volevano far emergere la quantità di personale sanitario che si era infettato anche per responsabilità dei mancati interventi della Regione. Siamo arrivati, poi vado velocemente per fare tutto il percorso, alla fase 2, e questo poi sono uno dei motivi per cui ho sostenuto la proposta di arrivare a commissariare la sanità in Regione Lombardia, perché ci sono stati dei disastri che sicuramente hanno aumentato non solo le infezioni ma anche i decessi. Ma nella fase numero 2 non è che la situazione sia cambiata. Adesso in che situazione siamo? Abbiamo un sacco di gente che è a casa in attesa di Godot, nel senso che dopo l'11 maggio il medico deve fare la segnalazione se c'è una persona che ha una patologia simile al Covid. L'ATS deve intervenire e fare immediatamente il tampone. Qualche volta lo fa, qualche volta no. Dopo, quando questa persona viene curata e guarisce, o comunque ci sono 14 giorni di assenza di sintomatologia, deve fare altri due tamponi, se sono negativi può tornare in società. Ma dove sono questi due tamponi? Ma c'è gente che settimane che aspetta e nessuno gli fa questi tamponi. Oppure abbiamo persone che hanno fatto il tampone e che sono lì da 10, 12, 15 giorni ad aspettare il risultato del tampone, cioè non sanno se sono positivi, devono quindi stare in casa, oppure se sono negativi e non hanno questo obbligo, e quindi loro, i loro conviventi, una situazione folle. Per non parlare, e qui veramente, a mio parere, io sono un medico, non sono un giurista, quindi, ma secondo me qui c'è del penale, perché quando l'ATS, e abbiamo la documentazione, arriva a rispondere ai medici che hanno segnalato patologie simili al Covid prima dell'11 maggio, a tutti quelli che l'hanno segnato per 11 maggio, dice: dopo 14 giorni di assenza di patologia, queste persone possono tornare a lavorare, quando sappiamo che il virus può persistere anche 30 giorni senza sintomatologia, è folle. E infatti molti miei colleghi medici del lavoro hanno detto: no, non potete tornare a lavorare dopo 14 giorni. Ma il medico di base dice: sì, ma la ATS mi dice che dovete tornare a lavorare. Risultato: questi sono a casa col medico di famiglia che continua a fare certificati di malattia, scrivendo in attesa di tampone, perché la situazione non si sblocca. Quindi anche la fase 2 è questo disastro, anche la fase 2 manca qualunque sistema di sorveglianza sanitaria D'altra parte, chi volete che faccia l'emergenza sanitaria? Qualcuno che dice che per infettarsi ci vuole la presenza contemporanea di due persone Covid. Quindi una cosa assolutamente assurda. Che cosa mi auguro? Vabbè, noi abbiamo raccolto queste firme, abbiamo chiesto che ci fosse il commissariamento, ci sarà un'iniziativa il 20 di giugno. Fortunatamente ce ne sono state già altre prima e hanno avuto anche un risultato importante, perché hanno spinto la gente a uscire da casa, a testimoniare la loro presenza. Posso dire la mia è che il governo si guarderà bene dal commissariare la regione Lombardia, perché vuole evitare lo scontro politico fino in fondo. Di mezzo ci va la salute però dei cittadini e i rischi che ci sono. Adesso arriveranno dei soldi attraverso l'Unione Europea destinata anche alla sanità, bisognerà vedere dove vanno a finire. Va commissariato il governo. Ecco, quindi questo è il futuro e la situazione che abbiamo davanti. Ho fatto la storia di quello che a mio parere è avvenuto. Ha commissariato il governo. Allora, sì, ho capito, ma quello non lo possiamo fare. E noi, il governo non siamo in grado neanche di cambiarlo. Sulla regione Lombardia c'è un articolo della Costituzione che lo permette, ma ripeto, secondo me è un'azione di significato politico, perché il governo si guarderà bene, per i motivi che ho spiegato, di andare a commissariare la regione Lombardia. Quindi possiamo puntare, a mio parere, solo sull'attivismo delle persone. E qui mi finisco. Allora, riprendo la parola. Va bene. Vittorio, grazie di aver fatto un punto in poco tempo. Grazie. Passo la parola quindi a Ginevra Battistini, giornalista di Brescia. Di Milano. Di Milano, scusa, è vero che sei di Milano. Se ci puoi raccontare un po' anche te qual è stata la tua esperienza in questi 3 mesi e quello che hai fatto. Sì, no, allora innanzitutto volevo esprimere la mia vicinanza e solidarietà a voi, visto che credo che la tua compagna abbia avuto il Covid, o comunque, insomma, da quello che ho capito, lei è un'infermiera o un'operatrice sociosanitaria, giusto? Sì. Ecco. Detto ciò, allora, come prima cosa mi collego, diciamo, all'ultima parte di Agnoletto, che ho sempre seguito in questi mesi, quindi diciamo io le sue dirette televisive, insomma, le sue dirette streaming le ho sempre seguite. E devo dire che è stato un faro, perché, cioè, pur essendo, come dire, giornalista e riuscendo da sola a capire, come dire, quando c'è la fake news e quando c'è, però sicuramente c'è stata confusione, quindi avere come dire, una spiegazione così dettagliata è stata una cosa estremamente utile. Non sono d'accordo con lui sul fronte politico, è un po' la mia, diciamo, materia. Per cui ritengo che invece il commissariamento sia assolutamente doveroso, anche se, avendo intervistato anche la professoressa Maria Agostina Cabiddu, che ha fatto proprio per il gruppo Milano 2030 la sua, diciamo, valutazione, relazione sulla materia giuridica e costituzionale, anche il problema del commissariamento, come dire, tiene in sé delle incognite, soprattutto perché bisogna poi saper individuare un commissario, e in questi tempi sappiamo che individuare una persona onesta e preparata non è così scontato, no? Allora, e chiaramente il commissario ha, come dire, dei poteri molto particolari, quindi se non è la persona giusta e non ha la competenza, l'onestà intellettuale, morale e il rigore necessari, rischia, come dire, di ingolfare la macchina. Detto ciò, io come giornalista, ma a questo punto come attivista, sono in piazza dal 4 maggio, il giorno in cui il lockdown è stato allentato, e avevo già annunciato su Facebook, dopo aver firmato, sono state tra le prime, la richiesta di commissariamento. So benissimo, soprattutto nella nostra, diciamo, appestata Lombardia, so che da anni, come dire, quello che è successo, e cioè di avere amministratori assolutamente incompetenti, non è semplicemente dipeso dal fatto che queste persone sono state votate, ma anche dalla diciamo, nostra capacità di cittadini di contrastare il malaffare, il malcostume e tutta una serie di cose. Quindi diciamo che io, che sono una cittadina di sinistra, mi ritengo in qualche modo responsabile per non aver capito l'enormità dei danni, no? E la sanità è proprio la cartina di tornasole, quindi ritengo che l'unico modo per mobilitare la politica a fare un intervento deciso sia la piazza. Da questo punto di vista sono molto delusa della mia regione. Se fossimo in Emilia-Romagna, dove comunque quattro ragazzini sono riusciti a contrastare la Lega facendo scendere in piazza milioni di persone, non soltanto in Emilia-Romagna ma in tutta Italia e anche all'estero, parlo delle Sardine, se fossimo in quella regione che io conosco bene, sicuramente avremmo avuto una capacità non solo di resistenza ma anche di reagenza diversa. Allora, io ho fatto questi flash mob in cui, con tutte le norme rispettate in maniera pedissequa di distanziamento fisico, con la mascherina e quant'altro, utilizzando dei cartelli in cui citavamo le leggi, quindi nessun insulto, nessun attacco, ma semplicemente la verità, che è la cosa che in genere fa più male, quindi l'articolo 120 della Costituzione, ma anche le leggi che proprio, stabiliscono quali sono le competenze e le autorità dei vari enti locali rispetto alla chiusura delle famose zone rosse. Sappiamo benissimo che secondo la legge 833 del 78 e anche la 225 del 92, in realtà i singoli sindaci avrebbero potuto, no? Tant'è che la cosa che mi aveva molto allarmato, quando anch'io evidentemente ero ancora un po' incosciente e avevo sottostimato l'impatto del Covid-19 in Lombardia, fu intervista fatta dai miei colleghi della Press al sindaco di Codogno il 22-23 febbraio, cioè proprio i primissimi giorni. Ed era l'appello di un uomo disperato, intelligente, cioè ragionevole, che è riuscito a imporsi, e lì la zona rossa è stata fatta. Allora, i sindaci di Alzano, Lombardo e di Nembro evidentemente non sono riusciti, ma la responsabilità oramai, come dire, documentata e certificata da tutti, soprattutto dai giuristi, è che loro, cioè Fontana, aveva questa autorità e non ha voluto utilizzarla. Dopodiché io, critico a questo punto anche il governo, perché francamente se il sindaco non riesce a farlo e imporsi, se la regione di fatto non lo fa, secondo me bisognava appunto fare un intervento più deciso e tempestivo da parte del governo centrale per chiudere la Valseriana. Allora, io che cosa ho fatto? Ho organizzato questa cosa e siamo in piazza ogni tre giorni a settimana alle 18 davanti alla Regione Lombardia, il lunedì davanti al Pio Albergo Trivulzio il mercoledì e davanti al Comune di Milano, perché come ricordava Agnoletto, qui ci sono delle grosse responsabilità anche del Comune di Milano, e cioè i consiglieri e anche i dirigenti comunque delle RSA sono co-nominati, ovvero la regione li segnala, ma vengono nominati perché, questo ho fatto un'intervista peraltro a Basilio Rizzo, che è consigliere comunale di Milano, di fatto il comune deve dare il suo avallo, no? Quindi nel momento in cui abbiamo tutti visto, no? Cioè in tutti i giornali più importanti del mondo è uscita l'ordinanza dell'8 marzo, in cui si diceva che i malati Covid potevano essere spostati nelle RSA, ma secondo me è ancora più grave l'ordinanza del 30 marzo, in cui, quando oramai era stato comunicato al mondo che c'era stato un contagio, perché evidentemente c'era una promiscuità tra i degenti anziani sani e i malati di Covid, il 30 si è deciso di chiudere a doppia mandata e di buttare le chiavi, evitando, e quindi questa è una responsabilità penale enorme, a chi si era ammalato di essere trasportato in ospedale. Allora, tornando su quello che diceva Agnoletto, io posso assicurarle, Agnoletto, che le responsabilità penali ci sono e sono enormi, perché reati come procurata pandemia, omicidio colposo o addirittura doloso, omissione di soccorso e mancata vigilanza, se facciamo un calcolo di anni, ecco, arriviamo a pene veramente severe. Allora, noi come ci siamo organizzati? Parlo di me e del mio gruppo, che ieri abbiamo peraltro fatto un flash mob insieme ad altri cittadini, no partiti, no associazioni, siamo semplicemente cittadini comuni mortali che hanno deciso di esprimere una forte contestazione. Abbiamo deciso di fare un esposto un esposto collettivo per reati pesanti come procurata pandemia, omissione di soccorso e mancata vigilanza, la stiamo studiando molto bene con il nostro avvocato e probabilmente depositeremo questo esposto in diverse procure, non solo a Milano ma anche a Bergamo e Lodi, perché così ci ha consigliato il nostro avvocato, anche perché saremo circa un centinaio di persone e ognuno viene da, no, da queste province. Allora, quindi questo è il tema politico. Io quello che posso dire è che sicuramente la mobilitazione di piazza è fondamentale. Non nascondiamoci dietro a falsi pretesti del tipo la sicurezza e quant'altro, perché se andiamo a fare la spesa in un luogo chiuso con la mascherina rischiamo senz'altro il contagio di più rispetto a stare in una piazza all'aperto con 2 metri di distanza e un cartello esposto, peraltro noi l'abbiamo anche plastificato in modo che possa poi essere disinfettato, quindi meglio di così. Non si può fare. Allora, perché la gente non scende? Un po' perché alcuni sono ancora sconvolti, traumatizzati, malati, altri che purtroppo la Lombardia, che è la regione in cui dove io sono nata e cresciuta, soprattutto Milano, io francamente non ricordo mobilitazioni importanti se non in concomitanza con la campagna elettorale del sindaco Pisapia, che appunto a cui ho partecipato e poi sono stata anche assunta in comune, quindi come dire mi ricordo quel tipo di mobilitazione che è partita dal basso e mi ricordo che ha ripulito la città da un'amministrazione scellerata che aveva provocato diversi danni. Allora, su questo discorso della piazza invito tutti a fare una riflessione, perché come dire, abbiamo tutti, secondo me, il dovere, quindi non solo il diritto, ma il dovere di cambiare atto rivoluzione è l'espressione di un diritto sancito dalla Costituzione e quindi come dire invito tutti a fare questa cosa. Dopodiché noi appunto, io sulla mia pagina Facebook Ginevra Battistini ho tutti gli appuntamenti, il 20 di giugno si sta organizzando una grande mobilitazione e invito tutti a partecipare. Detto ciò, per un senso di responsabilità invece nei confronti di tutti gli italiani ma anche di tutti i cittadini del mondo che avessero tra virgolette la sventura di incontrare noi lombardi, allora io ero molto contraria alla riapertura totale al 3 giugno. Secondo me la Lombardia doveva rimanere chiusa, come ha detto più volte anche il virologo Galli del Sacco, almeno fino, non so, per altri 15 giorni. Detto ciò, anche il ministro Di Maio, vorrei ricordargli che non ha soltanto una responsabilità, diritto e dovere, diciamo, sui cittadini italiani, ma anche sui cittadini del resto del mondo. Quindi questa pagliacciata con il muscolo, diciamo, proteso rispetto alla Grecia, paese che io peraltro adoro, o l'Austria, la trovo assolutamente responsabile. Io vorrei fare il test sierologico, ho chiesto al Sant'Agostino, avrei preferito farlo presso una struttura pubblica, ma non è possibile, perché di fatto, come dire, non ho i requisiti, non sono malata, o penso di non esserlo, comunque il test, però anche lì vi dico, test sierologico al Sant'Agostino, 35 euro, il sistema per farlo è soltanto attraverso una registrazione online, il sistema è bloccato perché è sovraintasato, oggi ho chiamato, avevo scritto per denunciare questa cosa dicendo che non riesco a fare questo test, che voglio fare proprio perché ho intenzione quest'estate di sconfinare e voglio essere sicura di non portare il virus, no? Nel caso in cui fossi asintomatica, eccetera. Purtroppo anche al Sant'Agostino, avendo un problema di motore di ricerca o comunque di gestionale, insomma, bloccato, non riesco a farlo. Quindi semmai chiedo anche ad Agnoletto come possiamo noi cittadini responsabili che vorremmo andare in vacanza, magari in Grecia, magari in Sicilia, fare un test. Vittorio, vuoi replicare? Sì, allora, intanto dico a Ginevra che forse non ci siamo capiti o non sono riuscito a spiegarmi. È evidente che io penso che la sanità lombarda vada commissariata. Sono stato uno dei primi a firmare l'appello, ne abbiamo parlato, rilanciato. Io penso e ritengo purtroppo di essere sicuro che non sarà commissariata. Deve essere commissariata, ma dubito che il governo cioè che Conte abbia, faccia la scelta di andare a scontrarsi fino in fondo con la regione Lombardia e di commissariare. Non lo fanno. Speranza ha ricevuto le 80.000 firme da ormai più di 10 giorni e non risulta né che abbia risposto, come infatti ci hanno detto i giuristi che dovrebbe fare, né risulta che l'abbia portato nel Consiglio dei Ministri. Quindi è stato giusto farlo, è giusto insistere, è giusto metterlo come obiettivo, però io temo, penso che il governo non lo farà e che quindi quello che conterà, e sono quindi d'accordo con quello che hai detto, è e sarà il protagonismo della gente, perché se pensiamo che Roma commissari la sanità e stiamo ad aspettare, a mio parere non lo fanno. E la seconda precisazione che volevo fare, io sono d'accordo con te, sono convinto che ci sono grosse responsabilità penali. Io mi ponevo il problema se poi un magistrato specifico, perché essendo medico del lavoro ho un'attenzione particolare a queste cose, se i magistrati individueranno o meno, e c'è un motivo per cui dico questo, la responsabilità penale anche in quel provvedimento che ha detto che dopo 14 giorni di assenza di sintomi le persone possono tornare a lavorare. Perché a mio parere questa è una cosa molto grave. Quindi oltre ad esserci tutto un problema che le persone stanno a casa, hanno un problema col lavoro, chi non lavora come dipendente ovviamente non guadagna, gli altri vengono pagati dall'INPS, quindi dalla collettività eccetera eccetera perché non fanno i tamponi, io credo che ci possa essere proprio anche su questo aspetto specifico un aspetto penale, perché facendo tornare una persona a lavorare dopo 14 giorni rischia di infettare altre persone. Noi abbiamo fatto come osservatorio, questo non l'ho detto prima, abbiamo presentato lunedì una diffida alla regione Lombardia, raccogliendo molte segnalazioni di persone che abbiamo definito prigionieri a casa. È stato un lavoro molto complicato perché abbiamo poi dovuto selezionare quelli che erano ancora a casa adesso e poi avere la liberatoria per poterlo fare, eccetera, eccetera. Adesso so che alcune di queste persone poi sono state contattate dai media nazionali per intervistare e spiegare che cosa sta succedendo. Io spero che questa notizia riesca a avere la sua forza e che si riesca, però io non sono un giurista e qui mi hanno detto che è molto complicato, poi fare il passaggio successivo, cioè tipo una class action di quelli che sono stati bloccati e sono a casa, che tra l'altro rimanere a casa quando non sai che cos'hai e non ti viene fatto il tampone produce anche una serie di conseguenze anche sul piano psicologico, oltre che economico per il singolo e per tutti. Sulla domanda che mi hai fatto, allora io ti dico quella che è la mia ipotesi, no? Perché come mai a un certo punto le strutture private, il Sant'Agostino, ma anche altri che non nomino per non voglio fargli pubblicità, hanno cominciato a un certo punto a disdire perfino alcuni appuntamenti fissati per i test a fissarne meno? Perché? Qual è il meccanismo utilizzato dalla regione? La regione ha detto: io non faccio test e tamponi se non i tamponi a quelli che mi vengono segnalati dopo l'11 di maggio, con i ritardi eccetera che ho descritto, i test sierologici li utilizzo unicamente per le ricerche epidemiologiche tra il personale sanitario e tra alcune fasce particolari di lavoratori. Il resto, il cittadino che vuole, se li vada a fare privatamente. Quindi ha regalato una cifra potenziale enorme a tutte le strutture private che possono fare test e tamponi. Però poi, siccome è chiaro che a quel punto partivano delle critiche pesanti, perché a mio parere non sono un giurista, ma ci sono degli aspetti di costituzionalità, cioè di incostituzionalità, perché secondo me tamponi e test fanno parte dei LEA, dei livelli essenziali di assistenza, e quindi devono essere inseriti, cioè articolo 117,2 lettera M, devono essere inseriti lì dentro, quindi forniti dallo Stato. Siccome aspettava questa critica, che cosa ha fatto la Regione Lombardia? Ha detto: tutte le strutture private che fanno i test ogni 100 test che fanno in più di quelli che hanno fatto fino all'11 maggio, cioè nella media, facendo la media dei mesi, ogni 100 che ne fanno in più, 80 devono essere fatti su richiesta del servizio sanitario regionale, cioè nel meccanismo di accreditamento. Che cosa succede? Che se il servizio sanitario regionale non chiede di fare i test, la struttura privata deve limitare ulteriormente il numero, perché se ne ha fatti, che ne so, 50 di test, ma il pubblico gliene ha chiesti solo 25, non va bene, perché non ha fatto il 20% in più, ha fatto il 50% in più. E quindi, avendo messo questo, che è il meccanismo con cui la regione ha tentato di rispondere a ipotetiche critiche di costituzionalità, le strutture private hanno dovuto in questa fase limitare, perché non arrivano richieste al pubblico, quindi non possono farne molto di più. E questo porta a quella situazione di imbuto che tu hai raccontato e che conferma assolutamente, perché abbiamo ricevuto diverse lettere, e oggi le ho anche sentite alcuni per telefono, proprio che li hanno disdetto da fare. C'è un altro business pazzesco, che è che tutta la medicina del lavoro in termini di tamponi di test è tutta consegnata al privato. E qui faccio dei nomi, perché abbiamo beccato proprio le mani nella marmellata di qualcuno. Noi in una trasmissione abbiamo proprio dichiarato pubblicamente che l'ospedale San Raffaele Rasnati ha fatto un tampone a una persona facendo pagare più di 300 euro. È venuto fuori un casino. Il direttore sanitario ha detto: abbiamo sbagliato, non lo possiamo fare, e restituiamo, ma pochi sono stati attenti alle parole che diceva. Lui ha detto: abbiamo sbagliato perché noi eravamo prima dell'11 maggio, abbiamo l'autorizzazione a fare i tamponi, ma solo per la medicina del lavoro, e invece lì l'avevano fatto individualmente. Quindi lì hanno rimborsato quello che hanno fatto pagare. E quando abbiamo chiesto: ma quanto li fate pagare dentro la medicina del lavoro alle aziende che lo chiedono? E mi pare che la cifra adesso fosse, mi sembra, 240. Cioè, una roba da matti, quando il tampone in termini di rimborso dallo Stato sono 62,89 euro. Allora, e lì non c'è il blocco del 20-80%. Quindi ovviamente i laboratori e gli ambulatori privati danno la precedenza a tutto quello che è medicina del lavoro, perché lì non hanno nessun limite da percentuale. Poi arriva il resto, che c'è questo limite percentuale, e guadagnano tantissimo. Allora, noi abbiamo appunto fatto questa diffida, vogliamo vedere se si riesce o no a fare una class action su questo. E poi stiamo preparando un esposto a 360 gradi. E io mi scuso forse che prima mi sono dilungato, ma perché ho voluto indicare i punti critici che noi vogliamo mettere dentro l'esposto. Cioè, vorremmo provare a fare un esposto che individua tutte le tutte, insomma, quelle che siamo capaci di individuare, ovviamente non è che siamo dei geni, no? Abbiamo dei limiti, però tutte le responsabilità delle regioni che riusciamo a individuare dall'inizio, cioè la mancanza di un sistema di sorveglianza, fino ad adesso. Costruita sul terreno, abbiamo messo insieme avvocati di amministrativo, penale e civile, costruita su tutti e tre i terreni, perché ci sono le cause penali per le responsabilità che hanno, e poi anche quelle civili, quelle amministrative. Perché amministrative? Io le chiamo così, di diritto amministrativo, perché alcune volte le leggi e le delibere c'erano e non le hanno usate. Il piano pandemico c'è dal 2007, poi l'hanno dovuto rivedere nel 2010, riapprovarlo nel 2013, la Commissione europea è intervenuta a dire: dovete aggiornarlo. Il piano pandemico non era stato attuato però, ed era previsto, quindi lì c'è anche un problema amministrativo. E mettendo insieme il tutto, ovviamente quando poi vai sul penale eccetera, hai bisogno delle testimonianze delle persone, quindi stiamo facendo un lavoro enorme di raccolta delle segnalazioni che ci sono arrivate, che ovviamente non possiamo utilizzare così, perché erano arrivate a me o erano arrivate in radio per denunciare la situazione. Dobbiamo ricontattare le persone, chiedere una liberatoria, metterli in contatto con gli avvocati e costruire questo percorso, che spero riusciremo a fare. Quindi per il test uno deve chiederlo e aspettare che glielo facciano. E Adesso con, so che diverse trasmissioni televisive ci sono andate, il report è andato, mi pare che fosse il report, insomma, l'altro giorno, adesso tra ieri e oggi ci hanno contattato diverse reti nazionali per avere le testimonianze e devo dire ringrazio quei cittadini che hanno accettato, qualcuno mettendoci la faccia, qualcuno chiedendo di farlo in anonimato, perché è diverso, è molto meglio che lo raccontino loro che lo racconto io, perché loro raccontano la loro testimonianze. Spero che quindi in questa settimana questa cosa rimbalzi e si riesca un minimo a sbloccare, a chiedere che vengano inseriti nei LEA almeno per tutti coloro che hanno avuto la sintomatologia, che non è stato chiarito, che hanno avuto una convivenza, che sono stati dei contatti, almeno per questi come prima, ma stiamo parlando di decine di migliaia. E se questo non avviene, i tempi sono quelli che sono. E qui però è corretto dirlo, perché sennò sembra che vogliamo vedere solo da una parte. Su questo, secondo me, non so cosa ne pensi tu Ginevra, ma secondo me c'è anche un po' una responsabilità del governo, perché è ovvio che se il ministero li inserisse a livello nazionale nei LEA, rendendoli obbligatorio, a quel punto tutte le regioni non è che possono scegliere. Pensate che una delle email che mi è arrivata è una signora milanese che si è trovata a fare il lockdown in Toscana. A un certo punto, sintomi eccetera, voleva fare gli esami, chiede a un laboratorio toscano accreditato in Toscana e gli dicono non c'è problema, è tutto gratuito qui, ci mandi semplicemente la ricetta con la richiesta del medico suo di famiglia. Zero, non è mai arrivata quella richiesta, perché ovviamente la regione preme, perché siccome in Lombardia non l'avrebbe fatto a spese sanitarie, non gli va che il medico lo richieda fuori regione, che poi che dove glielo fanno gratuitamente e poi dopo la regione Lombardia deve rimborsare, e quindi siccome non lo fa fare qui, non lo fa fare neanche ai suoi cittadini che in quel momento si trovano là, mentre per i cittadini toscani, per prendere un esempio, e la Toscana ha i suoi limiti anche lei, perché anche lì non hanno scherzato sui meccanismi di privatizzazione, però lì questa roba qua ce l'hai gratuitamente. E faccio un'ultima osservazione, e questo secondo me, se sei d'accordo, no Ginevra, perché poi, cioè, io diciamo la mia professione è il medico, no, poi ho il tesserino da giornalista non professionista, faccio trasmissione, però io faccio il medico, ma quello che dico invece secondo me per un giornalista può essere proprio un terreno di lavoro per i prossimi giorni. È una riflessione che mi è venuta, ve la dico così. Abbiamo detto tutto questo problema della gente che sta a casa, che non sa quando può fare il tampone, eccetera. Allora, provate a pensare, ma noi, non pensiamo ad altri, ognuno pensa a se stesso. Cosa succederà tra una settimana in Lombardia? Cioè, oggi il 10, il 17, tanto per dire, potrebbe essere anche il 16. Cioè, quando il governo dirà, l'app Immuni entra in funzione anche in Lombardia e non solo nelle quattro regioni dove è stata sperimentata. Io mi chiedo onestamente, non nascondiamoci eccetera, onestamente, chi è quel cittadino lombardo che mette sul suo cellulare l'app Immuni, che quando gli arriverà il messaggio dicendo lei il tal giorno, perché non si dice l'ora e la persona, il tal giorno è venuto in contatto con una persona Covid positiva, avvisi il suo medico che deve fare la segnalazione, lei entra nel programma. Cosa fa il cittadino lombardo che sa che se dice questo al suo medico lo mette dentro, non ha, lo mette dentro nel percorso, non ha più idea di quando ne uscirà, perché poi nel giro di due giorni, una settimana, gli avrà fatto il primo tampone. Se risulta positivo, e già sto dicendo in tempi brevi, e quindi deve aspettare, ma poi se risulta positivo, quello passa lui agosto a casa, prima che gli vengano a fare i tamponi per vedere se è diventato negativo. E quindi in pratica l'app Immuni in Lombardia avrà pochissimo uso. E io credo che quindi sia uno strumento che, e pare, mi dicono gli esperti che sulla privacy sono stati molto attenti, poi mi auguro, ma che se viene utilizzato può essere utile, ma se funziona il servizio sanitario, perché altrimenti avremo che nella regione maggiormente coinvolta non verrà utilizzato, perché nessuno vuole farsi mesi estivi a casa in attesa che l'ATS si ricordi che c'è una persona che deve fare il tampone. Noi siamo riusciti a sbloccare alcune situazioni suggerendo di andare dagli avvocati, hanno mandato la lettera all'ATS e in copia l'hanno mandata al difensore civico e agli avvocati, e più volte difensore civico. Oggi proprio passava una rete nazionale un caso di una persona che ha vinto andando al difensore civico, è intervenuta sulla TS. Ma non è che migliaia di persone possano andare al difensore civico, andare dagli avvocati. Questa è una responsabilità pazzesca, perché non userai l'app Immuni, non segnalerai la cosa, eccetera, eccetera, cioè il cittadino non lo farà, e quindi noi avremo un aumento ulteriore di diffusione del virus in una regione dove, secondo i dati del Policlinico, quindi cito il Policlinico, che ha fatto uno studio attraverso il test degli anticorpi sui donatori di sangue, stimava in aprile, non adesso, che nella città metropolitana di Milano la percentuale di persone venute in contatto col virus oscillasse tra il 4,7 e il 10%. Se dovessimo applicare questo criterio a tutta la regione, ipotizzabile, perché non è che la provincia di Milano, la città metropolitana, è stata più coinvolta di Bergamo, Brescia, Lodi, Cremona e via dicendo, quei numeri significano dalle 500.000 a un milione di persone che sono state infettate. Certo che molti di questi avranno superato l'infezione e sono diventati negativi, ma molti altri ce l'hanno ancora, sono asintomatici, e quindi c'è tutto questo problema, che è un problema enorme, tant'è vero che più tamponi fai in Lombardia più emergono i positivi, perché si vanno a cercare persone anche che si sono infettate precedentemente. Ecco, poi c'è un altro aspetto, mi fermo qui, su cui io sono grande, sono amico da tempo, insomma, da molti anni, di Massimo Galli, perché lui era l'assistente di Moroni e noi lavoravamo insieme nella lotta all'AIDS anni 80-90, eccetera. Quindi abbiamo un buon rapporto e ci sentiamo. Lui ha accennato delle cose in televisione, poi me le ha anche raccontate. Cioè, se viene fuori, se dovesse venire fuori, io non so se è così, ma che c'è una ragione che non è scientifica per cui è stato bocciato il test rapido, quello con la puntura che si preleva la gocciolina di sangue che ti dà la risposta in termini velocissimi, poi se sei positivo devi andare a fare le altre verifiche. Se venisse fuori che è stato bocciato per lasciare spazio a un altro test, che è tutta la vicenda di Pavia, eccetera, eccetera, perché i responsabili regionali dicono questo test non va bene. Galli dice, momento, non va bene su uno studio fatto a Pavia, ma lo studio che hanno fatto a Pavia come l'hanno condotto? Mi diceva, per esempio, che hanno fatto questo test a persone che avevano appena avuto il rischio di infezione, tu sai che devi dare i giorni per la formazione degli anticorpi. Allora, anche questo sarebbe di una gravità incredibile, perché oggi in Lombardia non è ufficialmente utilizzato, è utilizzato spontaneamente da alcuni, anche il sacco l'uso, ma non è utilizzato in termini di massa, perché è stato detto non funziona. Se nella trial di prova che hanno fatto dovessero aver contato altre ragioni e non scientifiche, capite voi che cosa vuol dire. Ecco, mi fermo qui perché anche questa è un'altra pista ovviamente di ricerca. Ok, posso intervenire? Potrei intervenire anch'io? Sì, un attimo, facciamo fare prima il diritto di replica di Ginevra. Sono uno psicologo. Ok, allora, Ginevra, poi segui te. Ok, no, allora, sulla questione che dici, Vittorio, sulla LEA, allora mi sembra assolutamente doveroso che il ministro Speranza intervenga, come dire, nelle sue facoltà, e non lo sta facendo. Io, francamente, posso dire che sono delusa dal ministro Speranza, perché gli ho dato fiducia all'inizio, ma devo dire, tra la questione del commissariamento e soprattutto anche questa cosa, è fondamentale. Anche Galli dice che è scandaloso che tamponi e test vengano fatti dai privati e non dal pubblico, se non quella famosa lista di gente che è stata selezionata. Senza tamponi, senza tracciamento, senza isolamento dei malati e trattamento, non ne usciamo più. Ripeto, io come cittadina adesso, è paradossale, ma pensate che Atene ha istituito i tamponi in aeroporto, quindi paradossalmente io che vado in Grecia in genere da Patrasso, perché arrivo in nave, mi conviene andare in aereo, perché così gratuitamente mi fanno il tampone in aeroporto i greci. Cioè, ci rendiamo conto dell'assurdità del meccanismo? Allora, tornando alle vacanze, io trovo che un cittadino serio, prima di andare in vacanza, dovrebbe sapere qual è la sua condizione di salute. Questa cosa di Immuni, io in maniera un po' prosaica, Vittorio, ti dico, secondo me è una grande buffonata, perché è come se noi volessimo costruire una casa partendo dalle tegole. Allora, il virologo Andrea Crisanti ha detto che è uno sperpero di denaro. Se non facciamo i tamponi, se non capiamo appunto quante persone sono state contagiate e a che punto siamo, a questo punto con l'immunità di gregge in Lombardia, non solo mettiamo a repentaglio la salute e la vita degli altri, ma, e qui poi la domanda te la faccio magari dopo, però insomma te l'anticipo, è: rischiamo davvero un'ondata di ritorno a settembre-ottobre? Perché io, come te, ho anche dei bambini che vanno a scuola materna, elementari, medie e quant'altro. Allora, sul tema prettamente politico ti dico, noi siamo in, cioè, so che la senatrice di LeU, la Loredana De Petris, ha fatto un'interrogazione parlamentare, ha chiesto un'interrogazione parlamentare. È l'unica, insieme a Ricciardi, che ha fatto, come dire, una ringa molto dura, ma perché era giusta e sacrosanta, contro la Regione Lombardia e gli amministratori Fontana e Gallera, è l'unica che ha fatto qualcosa, diciamo, di concreto. Ripeto, secondo me, senza una mobilitazione e ritorno, no, appunto, senza una mobilitazione di massa non ne usciamo, perché i cittadini devono responsabilizzare se stessi. Sulla diffida ti chiederei di convergere, se vuoi, quantomeno facciamo qualcosa di, magari, insomma, nel senso che io, voi avrete i vostri avvocati, io ho i miei avvocati. Volevo capire che cos'è la diffida, perché noi stiamo facendo quella che tu dicevi, una class action. In Italia non si chiama class action, non ha, diciamo, le stesse prerogative del, diciamo, consumatore americano, che negli Stati Uniti è, come dire, molto rispettato e temuto, però abbiamo già anche noi in Italia gli strumenti giuridici per fare quello che appunto è un esposto collettivo, che nel caso nostro comprenderà ma centinaia di persone, chiunque voglia partecipare lo potrà fare. Quindi ti chiedo che cos'è, che cosa intendi tu per diffida, e poi eventualmente, se vogliamo, non so, confrontarci anche sulle misure di tipo legale che stiamo portando avanti. Lascerei la parola prima agli altri, no? Sennò continuiamo noi due, ho capito male? No, se non vuoi perdere il filo del discorso, dai pure la risposta. No, allora mi dico, dico che sono assolutamente d'accordo, che voglio dire, le iniziative giudiziarie devono convergere, dopodiché appunto c'è un momento in cui sono gli avvocati, no, che si devono parlare tra di loro, perché non siamo, perlomeno io non sono un tecnico della giustizia, quindi va assolutamente fatto. La diffida è una cosa che dà determinati tempi alla regione di rispondere, dopodiché il cittadino che si è sentito non rispettato prende le iniziative, dimostrando però anche ai magistrati che aveva dato dei tempi alla regione e quindi non devono ricominciare da capo. Questo è il passaggio. E oltre a questa, all'obiettivo di diventare una roba appunto pubblica, che chiede e pone il problema dell'inserimento nei LEA. Comunque d'accordissimo, ci mancherebbe altro che le iniziative giudiziarie, non solo quelle, devono convergere, anche perché, oltre che perché è giusto che sia così, anche perché i magistrati poi se ne hanno troppe, cioè ne scelgono di seguirne alcune, non altre, eccetera. Prima le facciamo insieme, eccetera, va benissimo. Sulla seconda ondata, io sinceramente non lo so, cioè direi una bugia se facessi delle ipotesi, perché sono aperte diverse appunto ipotesi. Una è quella, lasciamo perdere quello che succede in questi mesi, no? Che in parte è vero che c'è una diminuzione dell'aggressività del virus, che però poi c'è anche il fatto che in qualche modo hanno scelto di dire che va tutto abbastanza bene. Vediamo cosa succederà in ottobre e novembre. Allora, i virus normalmente, nella maggioranza dei casi, arrivano poi a non distruggere l'ospite a un certo punto, perché è quello che gli permette di replicarsi, e trovano un equilibrio. Però noi non sappiamo se è così. Qualcuno parla di modifiche del virus. Quello che è mutato tre volte. Ecco, allora, quello che so io è che sono stati individuate due o tre modifiche all'interno dell'RNA, e su questo però i virologi, da Galli agli altri, danno dei pareri diversi, cioè per esempio Galli sostiene che ci sono state queste modifiche, ma che queste modifiche non hanno inciso sull'aggressività del virus, altre sì, io non sono un virologo, quindi non lo so, ci sono state delle modifiche, però non, ripeto, non lo so, quindi è difficilissimo sapere, è impossibile, chiunque lo dice fa delle ipotesi, sapere cosa succederà in autunno. Quello che penso, e credo che siamo d'accordo tutti, è che in autunno dobbiamo essere pronti come se accadesse una nuova ondata. Cioè non è che ci si può far prendere alla sprovvista. E allora qui tutte le cose che non hanno funzionato devono essere messe sotto una lente e dobbiamo cercare di esercitare la massima pressione, una volta si diceva, credo che avesse senso, no? Di massa, eccetera, per cercare comunque di avere gli strumenti pronti. Non arriva, e tanto meglio, non arriva un'ondata. Ma se arriva, e fa ridere, fanno ridere, se no piangere, cioè piangere e ridere. Galera e Dana quando dicono che stanno preparando con l'ospedale fatta la fiera, che sappiamo tutti che cos'è stato, che non servirà un tubo messo lì così, eccetera. È tutta quella che io descrivevo come prima linea che deve essere formata, preparata, messa in grado di rispondere, riaprire gli ospedali che sono stati chiusi, assumere e prendere personale. Ma questo è anche il governo, perché il decreto che hanno fatto, se andate a leggere attentamente, una buona parte del personale viene assunto non a tempo indeterminato, quindi come precari. Poi tutta la partita con il privato. Gli metteranno degli obblighi o no se arriva una seconda ondata? Cosa aspettiamo? Che arrivi? Quindi io in Ginevra non ti so rispondere, perché farei delle ipotesi che non sono scientifiche, cioè sarebbe un'opinione così. Penso però che bisogna spingere perché comunque si sia pronti. Non possiamo nemmeno pensare di rivivere questa situazione, ma proprio nemmeno, insomma, è stata una cosa tremenda, veramente tremenda. Guardate, do un dato solo, perché ne sono stati dati migliaia, ma questo secondo me è poco conosciuto, cioè il dato della letalità da Covid, cioè la Lombardia è attorno ai 185 morti su 100.000 abitanti solo in base alle diagnosi ufficiali di Covid. Per capire qual è il rapporto col resto d'Italia, la media nazionale è attorno ai 60 decessi Covid per 100.000 abitanti, la Basilicata, che era l'ultima regione, quindi però non c'entra la popolazione, perché il rapporto al numero era sul 5 decessi su 100.000. Quindi quello che è avvenuto in Lombardia non ha paragoni in nessun'altra parte, almeno d'Europa. Per renderci conto di quello che abbiamo vissuto. Grazie. Bergamo al primato del mondo. Sì, neanche da altre parti del mondo. Aggiungo solo questo, che però è un capitolo che andrebbe studiato. Posso? No, scusa, aggiungo solo questo. Hai ragione, in altre parti del mondo andrebbe interessante sarebbe capire se l'impatto devastante che ha avuto in alcune città nordamericane c'è un rapporto, come credo, ma vederlo proprio sui numeri, col disastro della sanità che hanno loro, no? Assicurative, eccetera, eccetera, nonostante i tentativi di riforma Obama, perché anche lì stanno pagando un prezzo di non avere praticamente quasi una sanità territoriale. Scusa, è finito. Allora, Ginevra, tu volevi replicare ancora qualcosa? No, io sono a posto, grazie. Va bene, allora aveva chiesto la parola CD, mi sembra, che qua viene fuori come Samuel, quindi chiederei di intervenire lo psicologo, di introdursi. Sì. Buonasera a tutti, io sono Enzo. Io la cosa che vorrei innanzitutto rimarcare è un aspetto che tutti andiamo a cercare la responsabilità della regione o eventualmente dello Stato, commissariare la regione, commissariare lo Stato. E dal 12 gennaio esiste una linea guida che era la linea guida che l'Istituto Superiore della Sanità aveva emesso proprio per il Covid-19, che allertava già su quello che devono essere le procedure che i medici avrebbero dovuto adottare per trattare la patologia. Quindi parliamo del 12 gennaio, non parliamo di periodi ancora dopo che andremo dopo a incontrare. Se non che cosa è accaduto? Che nessun medico, ma nessun medico, io ho un amico di Bergamo, medico generico, che è andato completamente in palla, perché lui medico generico, è andato nel periodo poi di febbraio, fine febbraio, è andato da un paziente. Da questo paziente lui ha contratto il Covid-19, lui ha continuato regolarmente a lavorare e il problema grave è stato che quasi nessun medico ha adottato quello che la 626 dovrebbe essere applicata in tutto il comparto sanitario quando si vanno a trattare patologie infettive che hanno uno stato febbrile. Quindi i primi da commissariare sarebbero i medici stessi, perché i medici, nel momento stesso che hanno a che fare con una patologia infettiva che ha influenza, devono adottare mascherine e guanti. Il medico generico, invece, questo non l'ha assolutamente fatto. Infatti, a questo amico gli ho detto: sei stato tu il patogeno di questo veicolo, perché dopo lui addirittura è andato anche nella RSA e quindi a quel punto lì ha fatto da veicolo. E dire a un medico: tu che dovresti curare, invece hai addirittura contagiato. E poi partiamo dal presupposto che l'85% della casistica dei casi Covid sono tutti di un comparto sanitario. Quindi non è il discorso che noi mettiamo la mascherina dopo 4 ore, quella chirurgica medica, non ha più nessuna efficacia, non serve più a nulla, perché il virus dopo 4 ore può tranquillamente aggredire con la mascherina come vuole. E vediamo ai supermercati persone che la tengono 6-8 ore. E l'assurdo è quello, e noi continuiamo ad andare contro la regione, contro... No, hanno sbagliato completamente il protocollo e la linea guida che impone la 626 per il codice deontologico medico. E quindi è un assurdo continuare a sbattere contro uno, contro l'altro. La responsabilità è prima mia. Io, ad esempio, ad Alessandria, ho allertato subito un carissimo amico, e ad Alessandria è successo che ad Alessandria il reparto, che era quello di chirurgia intensiva, è stato istituito come reparto Covid. Perché sapevamo che a Tortona ci sono stati casi nella RSA che hanno riempito subito l'ospedale e l'ospedale è stato in grado di gestirlo. Oppure io posso fare il caso della casa Ascoli a Massa, dove non c'è un caso, ma non c'è un caso né tra il personale e neanche tra i pazienti. E questo perché sono state adottate quelle che sono le misure che noi professionalmente dobbiamo adottare. Quindi a quel punto lì, quando noi ci scagliamo contro la regione e contro quello, i primi sono i medici e sono stati gli operatori sanitari. E quindi è quello che mi fa arrabbiare, perché per la fine è una cosa che non ne parla quasi mai nessuno. Io a volte non riesco, quasi io parlo con i colleghi, parlo, ma no, mi continuano a dire: sì, Enzo, c'hai ragione, però alla fine dobbiamo difendersi. Ma difendersi da che cosa? Noi cerchiamo di salvare le vite, ma sicuramente in emergenza abbiamo cercato di farvi tutto, a parte le cure sbagliate all'inizio, perché all'inizio abbiamo anche sbagliato le cure, tra parentesi. Quindi a quel punto lì non è che la pandemia esiste perché a quel punto lì il cittadino sta facendo la movida a Milano. Non esiste, ragazzi, non esiste. Perché quello ha un'incidenza talmente bassa che viene catalogata fra il 3 e il 5% rispetto a tutto quello che è stato poi il problema nazionale. Sto parlando dell'Italia, sto parlando dell'Italia. Scusatemi se mi sono permesso di dire questo, ma non, cioè, vorrei che anche ci fosse una linea che va a vedere e identificare quello che è la nostra professione, la professione del medico. In questo caso io sono psicologo, non sono quindi un medico che va a operare, però ho aiutato tantissimi colleghi che sono andati veramente in palla per questa situazione ad affrontare questa emergenza. Questa emergenza l'abbiamo creata in parte noi. Ok. Grazie Enzo, siamo tutti responsabili, bisogna quindi fare i conti con le coscienze e vedere anche di trovare in questa idea di class action anche delle vie d'uscita che possano essere democratiche e che possano cambiare questo sistema corrotto fino al midollo. Purtroppo, infatti, il nostro Volevo presidente. aggiungere una cosa, me la permetti ancora? La soluzione io l'avevo paventata, perché io quando già, io la linea guida invece a gennaio l'avevo letta, anche perché ho avuto una malattia nel 2003, che era il periodo della SARS, e io ricordo che in quel periodo lì, se avessi avuto la SARS, perché infatti avevano ipotizzato che io potevo avere la SARS, se avessi avuto la SARS avrei contagiato 3 reparti. E quindi alla fine, fortunatamente, non c'era stata la SARS. Allora mi sono detto: come potrei interagire? Esempio, facciamo l'esempio della scuola. Nella scuola sono 8 milioni e 400 mila gli studenti. E e sappiamo che abbiamo 250.000 studenti che sono quelli che sono i cosiddetti studenti fragili, quelli che possono avere problematiche di salute o anche problematiche a livello psicologico. Di conseguenza, le persone che vanno protette sono queste. Idem per il Covid-19, per quanto riguarda il Covid-19, che andava a essere protetto, erano gli anziani. Le persone a cui dovevamo aver cura, a dire indossate la mascherina, mettete i guanti, o addirittura proprio quello che poteva essere il famoso plexiglass, mettetelo voi, andate a isolare loro, perché le persone fragili, perché il 66% dei decessi è dovuto a persone che avevano 3 patologie o addirittura più di 3 patologie. Il 34%, solo il 3% è rappresentato da pazienti che non avevano patologie. Quindi a quel punto lì sono loro che vanno proprio protetti in maniera sistematica. È lì che dobbiamo portare la nostra attenzione, perché le persone fragili che hanno avuto problemi, di qualunque fascia di età, però sono loro che sono i fragili, non siamo noi i fragili. Noi al limite possiamo avere un comportamento, un'educazione di cercare di non mettere a rischio queste persone, però è quando ci avviciniamo a queste persone che dobbiamo avere questo comportamento, ma non nella società comune io devo avere il comportamento di avere certe misure restrittive. No, io nel momento stesso che vado a incontrare quelle persone, ma sono quelle che andrebbero tutelate e forse isolate se c'è questo problema, perché non faccio uscire persone se hanno questi problemi già di salute per strada quando so che loro potrebbero facilmente prendere il Covid-19 e essere gravemente danneggiate da questa patologia. Ok, grazie. Grazie. Insomma. Vuole qualcuno riprendere? No, volevo dire una cosa io, sì, volevo ringraziare Enzo per questa testimonianza. Allora, dal mio punto di vista ti dico, io faccio la giornalista, però sono la prima, quando i miei colleghi sbagliano sbattendo in prima pagina il mostro senza avere, come dire, materiale supporto di tesi infanganti, sono la prima a prendermela, no? Perché danneggi la categoria di cui faccio parte, di cui peraltro non ho particolare stima in Italia. Sono d'accordo, così come bisognerebbe andare a verificare, secondo me, anche tutte le omissioni di soccorso fatte anche dal 118, insomma, perché io ho tante testimonianze di gente che diceva: io sono malata con un Covid di fianco che il mio inquilino, abbiamo chiamato per una settimana a Pavia, questa Liliana, l'autoambulanza. Dopo una settimana in cui chiamavamo l'autoambulanza, sono venuti a prendere il mio collega inquilino, insomma, malato, lo hanno portato al triage e questo praticamente stava morendo soffocato in triage perché è rimasto tutta la notte sul predellino, ok? Allora, anche lì, francamente, andare a verificare se c'è stata qualche negligenza, qualche ritardo, secondo me è doveroso. Così come, per cui sono, come dire, sono assolutamente d'accordo che la responsabilità la dobbiamo cercare ognuno di noi. Io non sono medico, però ero la prima a stare molto attenta, quindi mascherine e quant'altro. Credo che un lavoro di educazione, di disciplina, diciamo, di massa, da questo punto di vista, anche nella, ma anche, come dire, senza... come dire, senza una sorta di furia giustizialista, ma verità e giustizia, verifica, cioè dove ci sono state le falle, come possiamo prevenirle, perché come giustamente diceva Vittorio, noi soprattutto con l'amministrazione che abbiamo, però cioè, su questo secondo me Enzo un po' sbagli, perché qui cioè, la responsabilità degli amministratori locali è stata enorme, quindi noi dobbiamo prevenire quello che secondo i massimi esperti mondiali sarà una costante del nostro millennio. Le epidemie torneranno e torneranno proprio per la questione della natura che è sempre più promiscua all'uomo, i salti di specie e quant'altro. Allora, siccome tornerà tutto ciò che si chiami Covid-19, che si chiama SARS-2013-1, noi, soprattutto lo dico per chi come me e Vittorio ha bambini piccoli, abbiamo il dovere di fare un controllo, no, da cittadini rispetto alle autorità che ci governano. Il tema scuola, che non affrontiamo oggi, però è stato micidiale, cioè ancora oggi noi non sappiamo a settembre se e come torneranno i nostri figli a scuola. Chiudo. Mm-hmm. Giampaolo, la parola, Giampaolo Rossi. Niente, io volevo innanzitutto ringraziare, io sono dell'Arci di Como e della presidenza di Arci Lombardia. Volevo ringraziare chiaramente il Circolo Arci Noerus per questa iniziativa e per le molte cose interessanti che ho ascoltato da Vittorio, dalla collega giornalista, e dire che dal mio punto di vista, dal punto di vista della mia associazione, è vero che tutti hanno delle responsabilità, ma è anche vero che queste responsabilità sono diverse al variare della capacità che ognuno ha di agire nella realtà. E nel Certo. caso in questione, evidentemente la Regione Lombardia, il governo della Regione Lombardia e in particolare l'assessore al welfare della Regione Lombardia aveva molte più responsabilità di quante ne avesse un giornalista, un operatore sanitario o un medico. Quello che è il concetto di responsabilità ci aiuta a capire che le responsabilità individuali sono importanti, ma se si crea una situazione nella quale non c'è la medicina territoriale, non viene fatto nulla per fare in modo che una patologia, guardate, oggi parliamo di questa, ma potremmo anche parlare di altre, anche le patologie ordinarie sono maltrattate in Lombardia. È evidente che qualche medico potrà sbagliare, qualche giornalista potrà travisare, questo sta nelle cose. Se però le procedure non vengono adottate, se si arriva a livelli di incompetenza, di cialtroneria e di corruzione, come abbiamo visto in Lombardia da 20 anni, e oggi abbiamo la Covid che ne evidenzia l'effetto, allora evidentemente la soluzione non può che essere politica, non può che essere il commissariamento, che è del tutto necessario non solo per quello che è avvenuto, ma soprattutto per quello che avverrà. Noi non dobbiamo pensare solo a quelle che sono state le responsabilità del prima e del durante, alle quali ovviamente si dedicherà la magistratura, spero con condanne opportune, ma dobbiamo preoccuparci del fatto che oggi noi abbiamo una situazione di epidemia in corso, abbiamo una scelta, a parere di molti, scellerata di aprire troppo, aprire tutti insieme e aprire affidando a ipotetiche cautele che sono molto difficili da sviluppare tante diverse attività. In questa situazione, pensare che Gallera stia in questo momento al suo posto insieme a Fontana per fare in modo che i cittadini della Lombardia e le cittadine della Lombardia sopravvivano a questa come altra epidemia, fa inorridire un concentrato di incompetenza, incapacità e corruzione senza limiti. Ecco, e da questo punto di vista anche la scuola, perdonatemi, io ho insegnato per 40 anni, ma perdonatemi la durezza di quello che dico. Gli esami di maturità non servono a nulla, né per chi vuole più selezione, i promossi sono il 98,6%, né che per chi vuole più qualità. È un rito frusto nato per salvaguardare le scuole private e oggi utilizzato per una sorta di sperimentazione dal vivo di cosa succede a prendere 500.000 persone in Italia e portarle a fare una cosa inutile con qualche rischio. Certo, i rischi vanno corsi, ma ci vuole anche un motivo per correrli. Questo non mi sembra sia il caso. E questo è anche ciò che accadrà quando giustamente le scuole dovranno riaprire. Voi vi immaginate Regione Lombardia che organizza le attività per gli studenti? Ci vuole il commissariamento, per questo l'Arci, come tanti altri, ha subito aderito all'iniziativa. Ci auguriamo di riuscire a portarla a termine perché è necessaria una svolta politica. La Lombardia è il luogo dove mancavano i medici e le università tenevano il numero chiuso per evitare che i medici fossero troppi. finisco per ringraziare ancora chi durante la pandemia ha saputo dire cose serene, chiare, scientificamente corrette e utili. Bene, allora lascio ancora gli interventi, c'è solo quello di Anna, se ci sono altri che vogliono intervenire lo scrivono in chat, siamo qua. Ciao, Arcino Erus, Como. Volevo fare un breve intervento in cui la mia testimonianza come OSS in OBI, reparto di emergenza accanto al pronto soccorso, e contrappormi un po' all'intervento di Enzo, perché sì, la responsabilità personale ci mancherebbe, è importantissima, però insomma siamo stati lasciati proprio, come diceva prima il dottore, siamo stati proprio abbandonati a noi stessi, cioè senza guanti, senza mascherine. Io mi sono contagiata subito a marzo e meno male che i sindacati hanno insistito perché si potessero fare i tamponi, perché sennò sarei andata il giorno dopo a lavorare ancora, avrei lavorato tanti giorni consecutivi positiva. E niente, sono un po' agitata, sono tante le cose da dire, sono state davvero molte le difficoltà in cui ci siamo trovati e ad oggi ci troviamo, perché ad oggi, per dire, il mio reparto non ha Covid dentro, però siamo chiusi al pubblico e i pazienti che da noi sono ricoverati non hanno possibilità di ricevere i familiari. Perché? Perché da noi arrivano quelli che sono in attesa del responso del tampone, e nonostante siano quasi tutti, sono tutti negativi, il parente non può, per dire, venire a trovarli. Ci sono difficoltà gravissime di comunicazione, ci hanno tolto il telefonino che c'era stato dato per far comunicare i familiari, quelli che magari non sono in grado di fare una telefonata da soli. Non so, in tante cose di questo tipo ne avrei davvero una quantità infinita, così come DPI fino all'ultimo sbagliati, dovevamo mettere, indossare un doppio camice perché non erano i camici giusti, quindi dovevi fare un turno intero vestito col doppio camice, non avevamo il bagno dove poter andare a far pipì in reparti sostanzialmente prevalentemente di donne, quindi anche per le donne non avere, ma non dico che per gli uomini sia meno facile assolutamente, perché sia più difficile, cioè, però non avere un bagno, non avere un servizio per 7 ore, a volte 10 ore, perché il turno notte è di 10 ore. Quindi, ripeto, la responsabilità personale di chi ha lavorato in questa pandemia, sì, di sicuro c'è, però, insomma, se tu non metti le persone in modo che possano lavorare in condizioni giuste, cosa chiedi? Non puoi chiedere l'impossibile. Niente. A riguardo poi ai sierologici, purtroppo ci tenevo tanto a farlo, anche se appartengo alla categoria dei sanitari, non ho diritto al sierologico, perché chi è stato trovato positivo al tampone non ha diritto a fare lo sierologico. Raffaele, che è il mio compagno, non ha avuto neanche lui diritto al tampone, per ottenere il suo tampone è stata una farsa, anche lì abbiamo lottato fino all'ultimo, e che non aveva più senso quando l'ha fatto. E qui chiudo e ringrazio tutti quanti. Però c'è un aspetto che secondo me comunque l'hai marcato anche tu in questo momento qua, vale a dire, noi non eravamo, io e mia moglie che è fisiatra e lavora in una casa di cura dove ci sono anziani, di conseguenza anche lei non avevano le strutture, abbiamo provveduto a farle noi, perché in questo caso qua di fronte a certe cose mi è prodotto farle noi, cioè non vado a mettere a rischio la mia, anche perché poi ragazzi miei è come se un muratore che deve lavorare sopra il tetto a quel punto lì non va a prendere l'imbragatura e dice ma sì, ma se cado pace ame, no, assolutamente non esiste, cioè io voglio non voglio, niente da dire, io dico perfetto, ma come c'è, se io so che nella mia professione io dico devo lavorare sperando che vada sempre bene. No, io lavoro dicendo: guarda, che se per caso arrivasse per caso qualcosa, e in passato qualche virus c'è già stato, prendiamo la SARS, prendiamo la suina, prendiamo tante altre patologie, sono già state. Io quel punto lì faccio in modo di essere attrezzato, perché altrimenti dico, mentre invece mi hanno detto a me, mi hanno convidato questo, ma no, io certe cose non potevo dirle perché altrimenti rischiavo licenziamento. Ma allora a quel punto lì ci sarà il sindacato, ci sarà qualcosa, muoviamoci, muovetevi, perché a quel punto lì, se c'è un sindacato, il sindacato parte e dice: guardate che il personale sanitario non è in grado di affrontare niente, e che se ci fosse qualcosa di infettivo noi non siamo in grado di affrontarlo, perché il mio se questo reparto, se tutti fossero andati nel mio reparto di infettologia, non sarebbe accaduto nulla, perché lì erano già preparati a trattare la patologia come se fosse una malattia infettiva. In questo caso invece no, abbiamo trattato una patologia come se fosse un'influenza, che il medico va come quando normalmente va a casa delle famiglie, senza mascherina, senza guanti, ma sì, intanto è un'influenza, se anche per l'influenza non è niente, ma non esiste, non è la giustificazione, non esiste giustificazione. Il nostro codice professionale fa sì che io devo tutelare me stesso per curare gli altri, non posso non tutelare me stesso e poi dopo contagiare gli altri. Non esiste professionalmente, che ed è inaccettabile che un operatore sanitario lavori in condizioni precarie, perché io dico: ah, oh, ma sì, ma intanto se non ci sono paciame. No, ci devono essere, perché lo impone la legge. Non è che lo impone qualcuno, lo impone la legge, la 626 per quanto riguarda il comparto sanitario lo impone. No, scusate, prendo un attimo io. Comunque, sì, no, a parte quello, comunque, Enzo, il problema è che questi in 15 anni non hanno messo delle norme adeguate per poter fronteggiare dal 23 febbraio questa pandemia, che se tu avevi le protezioni, ognuno a casa sua, ognuno sul posto di lavoro, già da 20 anni avevamo speso un cazzo ed eravamo protetti, il 23 febbraio mettevi in blocco come minimo un paio di regioni, capito? I pazienti sono arrivati in ospedale a flotte, nonostante la regione appunto dava questo appello: state a casa, ha sbagliato, gli diceva di stare a casa fino all'ultimo, la gente arrivava in ospedale che non respirava più, erano come pesci fuor d'acqua, i posti nelle malattie infettive erano già saturi da tempo, così come nelle rianimazioni, non c'era più dove metterli, i reparti sono stati divisi in maniera illusoria, facevano credere che in una parte non erano positivi, nell'altra c'erano i negativi. In verità i negativi, tempo qualche ora, diventavano positivi. Chi era nella parte dei positivi era protetto, chi nei negativi no, ma questi negativi non erano veramente negativi. Quindi le due cose si mischiavano e tu eri indifeso. Non è che io sono una pazza che vado al lavoro e dico: vabbè, non ci sono le protezioni, lavoro lo stesso, che figata. Alte, cioè, non descrivere così chi ha subito ad oggi questa cosa, perché è stata molto ben orchestrata, loro si sono tentati di parare il culo fino all'ultimo e ci hanno mandato lo sbaraglio. È ben diversa la cosa. Poi ti scusami, la 626 non esiste da tempo. Posso? Si chiama legge 83. Posso? Sì, grazie. No, volevo dire che appunto Enzo, che la 626 è superata ormai da tempo, c'è l'81 che è del 2008. Ma poi attenzione anche quando si citano le circolari. Tu hai citato la circolare del 12 gennaio del 2020, ma quello altro che dare indicazioni al personale, quella è la circolare incriminata. Quella è la circolare, quella del 12 gennaio del 2020, che dice: tutti tranquilli, l'OMS dice che non c'è problema, dice assolutamente di non evitare o ridurre i viaggi all'estero, i viaggi in Cina, cioè è la circolare che tranquillizza. No, la linea guida data all'Istituto Superiore di Sanità disponeva già quelle che devono essere le misure adottate all'interno dell'affare. Te la giro per me se vuoi, guarda. No, ma io dico la circolare del 12 gennaio. Quella 2020, del... 12 gennaio 2020, è una linea guida che l'Istituto Superiore di Sanità ha fatto, che io ho in possesso, e se vuoi te la giro per email, allora. Questa c'era proprio la linea guida, quella che c'è da fare per il Covid. Allora, quella che io ti dico, quella che ho davanti è quella del Ministero della Sanità, non è quella dell'Istituto Superiore di Sanità. e quella del Ministero della Sanità che io ho davanti adesso, e comunque per dire qual era il clima del 12 gennaio, dice: l'OMS non raccomanda alcuna misura specifica per i viaggiatori. In caso di sintomi suggestivi di malattia respiratoria, sia durante il viaggio che dopo il viaggio, i viaggiatori devono rivolgersi a un medico. E l'OMS raccomanda di evitare qualsiasi restrizione ai viaggi e al commercio con la Cina. Quindi, cioè, il clima era questo. E poi c'è un'altra cosa, perché quando tu dici che c'è una responsabilità, cioè tu hai detto due cose, su una sono d'accordo, sull'altra no. Quando tu dici che tutti i medici, tutto il personale sanitario devono prendere le misure di prevenzione, è vero, ed è quello che io nel primo intervento ho definito le linee guida sulle precauzioni universali dell'OMS, e questo è vero. Dopodiché, per mettere in grado il personale di realizzare quello, chi ha la responsabilità deve fare alcune cose. Per esempio, deve fare dei percorsi di formazione. Allora, la Regione Lombardia, ultimamente, rispetto ai medici, i percorsi di formazione erano su tutt'altro. Gli ICM l'ICM per tutti i medici, che sono i punti, no? Che devi fare 50 punti, e gli incentivi economici, per esempio, erano legati a tre pacchetti di corsi, di cui quello più gettonato, che dava più incentivi e dava più punti, era quello per sostenere la strategia sui malati cronici della Regione Lombardia, che privatizzava tutto e metteva di mezzo il gestore. Quello era il pacchetto formativo privilegiato che il medico che faceva aumentava l'incentivo e il numero di crediti che faceva. E invece sulle strategie di prevenzione, nulla. Per poter avere delle precauzioni necessarie, eccetera, devi avere anche dei tempi, devi avere il personale che non sia obbligato a fare dei turni massacranti, perché tutti sappiamo che con l'aumento dei turni e della stress del lavoro abbassi la soglia di attenzione, cioè si abbassa spontaneamente. Quindi io non voglio negare che ci siano poi anche delle responsabilità individuali dei singoli operatori sanitari. Però quello che qui non c'è stata una regia globale. Cioè la situazione che veniva descritta prima è così, cioè io ho sentito i miei colleghi piangere al telefono. Ci sono colleghi che hanno fatto 36 ore di seguito dentro e 36 sì, ore idem. E con 36 ore non tieni la mascherina per 36 ore. Ma guarda, non la tieni. Non ce la fai. No, è impossibile. Quindi, cioè, è vero che ogni medico deve sapere quello, però è anche vero che devi mettere in condizione il medico operatore. Oppure un grande ospedale di Milano, mi è arrivata una segnalazione, siamo alla fine tra febbraio e marzo, dove prima non erano arrivati i dispositivi, poi sono arrivati i dispositivi, tranne per il personale che lavorava su commesse esterne, per cui avevi il personale che faceva i trasporti interni all'ospedale, che siccome dipendeva da una cooperativa perché era stato esternalizzato il lavoro, grande porcheria che viene da Formigoni in poi, no? Questa logica, no? Dell'esternalizzare, non avevano i dispositivi di protezione individuale. Ecco, cioè, quindi questo la Lombardia è proprio un disastro totale sotto tutti gli aspetti. Sì, no, toglie la responsabilità individuale, però dobbiamo anche proprio capire che è mancata completamente qualunque regia e qualunque forma di preparazione. Aggiungo un'ultima cosa che qualcuno prima ha accennato, mi sembra importante riprendere, che ha a che fare anche con le cose dette adesso. Cioè, c'è anche un problema, ma veramente storico. Cioè, come avviene la formazione del medico dentro il percorso universitario? Cioè, uno si può laureare con un esame di deontologia che prepara in 4 giorni. Può laurearsi, se non fa una specialità di sanità pubblica, senza alcun esame di medicina preventiva, fa igiene, che è un'altra cosa, non è medicina preventiva. Può laurearsi senza sapere nulla, neanche un esame di come funziona l'organizzazione sanitaria. In più il percorso formativo ti porta a una medicina sempre più specializzata, per cui hai l'esperto del terzo dito della mano sinistra, l'esperto del quarto dito della mano destra, in una logica scientista totalmente, che perde di vista la visione dell'essere umano come un insieme, una visione olistica dell'essere umano. Sapete che siamo il paese in Unione Europea che ha il maggior numero di patologie che si producono in ospedale, dovuto a un uso sbagliato degli antibiotici e tante altre cose. Abbiamo una caterva di gente che entra, per esempio, per patologia cardiorespiratoria ed esce che ha risolto quella patologia, ma che non cammina più, perché un anziano è stato allettato per 15 giorni, non ha fatto fisioterapia, non hanno mandato neanche un infermiere perché non c'è, nel senso che non ce n'è abbastanza numero, ad alzarlo per farlo camminare almeno mezz'oretta e che torna a casa con le pieghe del decubito e che non è autonomo, no? Abbiamo un numero di patologie nosocomiali. Allora, c'è proprio da riformare, prima qualcuno ha accennato, no? La chiusura, numero chiuso, numero delle specialità, ma proprio anche ai percorsi di formazione. Io ho pubblicato, perché poi mi hanno creato sempre queste cose dei guai, ma comunque ho pubblicato su il mio sito una serie di ricerche che avevo trovato e che ho messo in confronto fra di loro sul peso dell'industria farmaceutica e dell'industria sanitaria sul Servizio Sanitario Nazionale. Uno va, trova il nome dei medici, cioè ci sono dei blog di cui ho trovato tutti i nomi dei medici che avevano avuto consulenze, cose pagate da determinate aziende, e la cosa impressionante è che non è che hai solo il numero dei medici, i nomi dei medici, hai le università e hai addirittura delle commesse di Big Pharma all'Istituto Superiore di Sanità, che è quello che dovrebbe controllare l'eticità di tutte le ricerche. Cioè, una pressione di questo tipo trasforma la medicina in una medicina che non va dalla prevenzione, che non va dall'epidemiologia, che non va dalla sanità pubblica, iperspecializzata, tutta curativa, unicamente sull'ultimo farmaco trovato. Quindi quello che è stato detto, e che anche tu Enzo hai detto, è giusto nella misura in cui pensiamo a riformare la figura del medico e anche della sanità, perché lo diceva, se non sbaglio, ho preso gli appunti, Ginevra in un suo intervento, il futuro, e io sono molto d'accordo, secondo me, ma non sono io che lo dico, non sarà su quando avremo il nuovo farmaco oncologico che aumenta di 2-3 settimane la vita e costa 100.000 euro, sarà come il nostro servizio sanitario è in grado di rispondere ad altri eventi epidemici prodotti da altri agenti infettivi nei prossimi 2, 3, 5, 10, 20 anni. Posso aggiungere un particolare molto bello. E quindi devi spostare l'orientamento della sanità, ecco, solo quello, scusa. Ti posso aggiungere un particolare molto bello, no? L'Organizzazione Mondiale della Sanità nasce in modo particolare, che definisce lo stato di salute di un individuo non come assenza di malattia, ma un equilibrio psicofisico. Quello che ultimamente si è molto puntato è l'equilibrio della malattia, ma non l'equilibrio psicologico della patologia, che è una fase ancora più complicata, perché quando tu a un certo punto vai in stress sedativo per psicologico, vai veramente in tilt, e tutto quello che hanno costruito ha fatto sì che la malattia ancora di più prende campo, perché abbassi anche le difese psicologiche e quindi non fai ancora più fatica. E poi, come dici, hai detto una cosa bellissima, no? Serve proprio la gavetta, Agnoletto, serve proprio la gavetta. Il medico serve che faccia gavetta, che faccia esperienza, e così può affrontare sicuramente al meglio. Grazie, Agnoletto, per quello che fai. Posso dire una cosa anch'io? Pronto? Chi sei? Sono Ginevra. Ma scusa, vai Ginevra. No, volevo dire questo, no, ringraziando anche Anna per la sua testimonianza, che comunque insomma ti faccio insomma ti ringrazio per il lavoro che hai fatto, e devo dire che anche dalle testimonianze di Agnoletto, comunque insomma è un film dell'orrore, cioè ascoltare la nostra chiacchierata è un film dell'orrore che purtroppo invece si è abbattuta sulla Lombardia e che in parte si sta ancora abbattendo. Allora io, appunto, l'ha già detto Vittorio, ma insomma che gli ospedali italiani siano quelli dove è più probabile contrarre un'infezione, io non lo sapevo, l'ho saputo un mese fa leggendo un articolo della Gabanelli, però parlando degli ultimi 20 anni, proprio brevissima testimonianza mia, io ho partorito nel 2014, cioè che le cose fossero andate in vacca, lo avevo capito da partoriente, da puerpera. Ho una sorella che ha rischiato di morire qualche anno fa, nel 2013, di leucemia, che è stata salvata dalla seconda sorella che ha fatto un impianto di cellule staminali. questo tema della medicina olistica è fondamentale. Cioè, io mi ritrovavo con gente, tantissimi medici iper specializzati che mi rispondevano: Ginevra, mi spiace, ma io non ti so rispondere sull'effetto collaterale del farmaco che abbiamo dato a Matilde sul fegato, perché io sono specializzato in timo. Per me il timo prima era una pianta, adesso so anche che il timo invece è una ghiandola che si ha in collo. Allora io francamente, l'unico che in quel periodo drammatico, mia sorella era molto giovane, con dei bambini piccoli, abbiamo rischiato come dire, di perderla, era il medico di base, che aveva una visione olistica, ma soprattutto che sapeva dare delle risposte di base su fegato, cuore, timo, eccetera, eccetera, no? Allora, questo problema della iperspecializzazione e anche della visione che poi è mens sana in corpore sano, Enzo, no? È fondamentale, dovremmo ritornare, secondo me, un po' all'antica cultura da Ippocrate alla Cina. Ecco, io questo mi auguro che possa essere un faro che si basa molto sulla prevenzione anche. Guarda, io Vittorio lo conosco dagli anni 80, che ero operatore bassa soglia per la Lira praticamente a Como. E pensavo già allora che serviva, oltre al medico di base, di fianco lo psicologo di base. Adesso addirittura penso che ci vuole anche l'avvocato di base. È vero. Purtroppo concordo, concordo pienamente. Purtroppo. Comunque la cosa che possiamo fare, anche Anna oggi l'ha dimostrato, secondo me è parlare. Cioè, io quello che chiedo anche agli infermieri e agli operatori sociosanitari che sto incontrando anche in piazza, vengono anche i nostri flash mob, è di denunciare, cioè avere il coraggio di fare rete, avere il coraggio di parlare, avere il coraggio di rivolgersi ai sindacati, che però purtroppo i sindacati non sempre sono capaci, hanno voglia o sono molto compromissori, avere il coraggio anche di avere, come dire, di usufruire degli avvocati che ci sono anche di base, lo fanno anche in pro bono, o comunque in rete poi le spese vengono, come dire, decisamente dimezzate, e di fare denunce. Ecco, io questo lo chiedo, cioè denunciamo tutto, francamente. A questo punto direi non un governo politico della sanità, ma un governo medico della sanità, dove ci sono esperti medici, che poi anche un sociologo, uno psicologo, non solo sentire parlare virologi che alla fine poi dopo socialmente parlando stanno creando solo dei danni per le affermazioni che stanno facendo, perché al di là di continuare a dire di come è composto il virus, di quello che può fare, al di là del virologo, ma è più importante magari sentire, non so, anche se magari potrebbe essere una voce fuori del coro, Zangrillo o Basetti, che non sentire sempre il solito virologo tutt'un mi fa, ma è proprio un team. Zangrillo potevamo anche, come dire, non citarlo per quanto mi riguarda. Comunque va bene, cioè, ci vogliono anche virologi. Era solo per esempio, no? Per dire, facciamo un team. Io dico sempre, dove finisce la mia conoscenza inizia quella di un altro. Scegli altri nomi, capisco. Oh, sì. Era perché uno conosciuto, dai. Tutti, c'è bisogno dell'epidemiologo, c'è bisogno del virologo, c'è bisogno del medico del lavoro. Ecco, soprattutto sapete di cosa c'è bisogno? C'è bisogno di persone oneste dal punto di vista intellettuale, integerrime dal punto di vista morale. Umili anche, che siano umili. In genere le cose poi coincidono. Va bene, se non ci sono altri interventi, ci volgiamo al termine della serata. Grazie, grazie a tutti anche grazie per grazie Vittorio. Grazie. Ci fate poi sapere dove si può sentire in podcast? Certo, girerò le varie redazioni e vi arriverà anche voi. Okay. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti, ciao. Ciao.